come esiste il diritto universale di amare, io penso che ci sia anche il sacrosanto diritto morale di odiare. E per favore, adesso non ditemi che non serve a niente e che non porta a nulla di buono. Non ditemi che ci facciamo il sangue marcio e che bisogna sapere perdonare. Partiamo da un concetto. Se ami consapevolmente qualcosa, inconsapevolmente odi l'opposto. E no, non te lo devi tenere dentro. Quindi, adesso inizio.